Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Era evidente che, senza sospettarlo e spinti unicamente dal loro temperamento cavalleresco e avventuroso, i nostri tre amici avevano reso servigio a qualcuno che il cardinale onorava della sua particolare protezione. Ma chi era questo qualcuno? Questa è la domanda che subito si posero i tre moschettieri, poi vedendo che il loro acume non era in grado di dare una risposta soddisfacente, Porthos chiamò l'oste per avere dei dadi. Porthos e Aramis si accomodarono a un tavolo e iniziarono il gioco. Athos passeggiava su e giù riflettendo. Riflettendo e passeggiando, Athos passava e ripassava davanti al tubo della stufa rotto a metà, l'altra estremità del quale immetteva nella stanza di sopra. E ogni volta che vi passava davanti, sentiva un mormorio di parole che finì per attrarre la sua attenzione. Athos si accostò e colse alcune frasi che certo gli parvero meritevoli di grande interesse, tanto che accennò ai compagni di tacere, restando egli stesso curvo, l'orecchio teso all'altezza del tubo della stufa. «Sentite, miledi», diceva il cardinale, «la cosa è importante. Sedetevi e discorriamo». «Miledi», mormorò Athos. «Ascolto vostra eminenza con la massima attenzione», rispose una voce di donna che fece trasalire il moschettiere. «Signora, un piccolo vascello con equipaggio inglese, il cui capitano è un uomo di mia fiducia, vi aspetta alla foce della Charente, al forte di La Pointe. Leverà l'ancora domattina». «Allora bisogna che io ci vada stanotte», disse la voce femminile. «Immediatamente, ossia quando avrete ricevuto le mie istruzioni. Troverete due uomini alla porta che vi scorteranno. Mi lascerete uscire per prima, poi, mezz'ora dopo di me, uscirete voi». «Sì, monsignore. Adesso torniamo alla missione che volete affidarmi, e poiché ci tengo a continuare a meritarmi la fiducia di vostra eminenza, degnatevi di espormela in termini chiari e precisi, perché io non commetta sbagli». Seguì un attimo di profondo silenzio fra i due interlocutori. Era chiaro che il cardinale misurava le parole prima di adoperarle e che Milady concentrava tutte le sue facoltà intellettuali per capire ciò che egli stava per dire e per imprimerselo nella memoria una volta detto. Athos approfittò di quella pausa per dire ai suoi due amici di chiudere la porta dal di dentro e per far loro cenno di avvicinarsi e ascoltare insieme con lui. I due moschettieri, cui piaceva restare comodi, si portarono una seggiola per uno, più un'altra per Athos. Sedettero tutti e tre, le teste vicine, le orecchie tese. «Partirete per Londra», continuò il cardinale. «Giunta colà, vi recherete da Buckingham. Faccio osservare a vostra eminenza», disse Milady, «che dopo l'affare dei puntali di diamanti per i quali il duca mi ha sempre sospettata, sua grazia diffida di me». «Ma questa volta non si tratta», disse monsignore, «di carpirne la fiducia, bensì di presentarsi apertamente e lealmente a lui come negoziatrice». «Apertamente e lealmente», ripeté Milady con una indescrivibile espressione di doppiezza. «Sì, apertamente e lealmente», rincalzò il cardinale con lo stesso tono. «Tutti questi negoziati devono farsi allo scoperto. Seguirò alla lettera le istruzioni di vostra eminenza e aspetto che me le dia. Andrete da Buckingham da parte mia e gli direte che conosco tutti i suoi preparativi, ma che non me ne preoccupo, perché alla prima mossa che arrischierà rovinerò la regina. E lui crederà che vostra eminenza sia in grado di mettere in atto questa minaccia? Sì, perché ho delle prove. E se nonostante tutte queste ragioni Il duca non si arrende e continua a minacciare la Francia? Chiese Milady. Il duca è innamorato come un pazzo, o meglio come uno sciocco, riprese Richelieu con profonda amarezza. Come i paladini antichi ha intrapreso questa guerra soltanto per ottenere uno sguardo della sua bella. Se sa che questa guerra può costare l'onore e forse la libertà alla dama dei suoi pensieri, come dice, vi garantisco che ci rifletterà su due volte. E tuttavia, insistette Milady con tenacia, dimostrando che voleva vedere chiaro fino in fondo nella missione di cui la si incaricava, tuttavia, se persiste, disse il cardinale, non è probabile. È possibile, replicò Milady. Se persiste, Sua Eminenza fece una pausa e soggiunse, se persiste, ebbene spererò in uno di quegli eventi che mutano la faccia degli stati. Se Sua Eminenza volesse citarmi nella storia qualcuno di questi eventi, disse Milady, forse condividerei la sua fiducia nell'avvenire. Ci saranno, in tutti i tempi e in tutti i paesi, soprattutto se questi paesi sono divisi in fatto di religione, dei fanatici che non chiederanno di meglio che diventare martiri. E anzi, mi torna proprio in mente adesso che i puritani sono furibondi contro il duca di Buckingham e che i loro predicatori lo designano come l'anticristo. E con ciò, disse Milady, e con ciò, continuò il cardinale con tono indifferente, per il momento non si tratterebbe, per esempio, che di trovare una donna bella, giovane, scaltra, che dovesse lei stessa vendicarsi del duca. Una donna simile si può trovare. Il duca gode i favori delle donne, se ha seminato più di un amore, con le sue promesse di eterna costanza, ha anche seminato più di un odio, con le sue eterne infedeltà. Indubbiamente, disse con freddezza Milady, una simile donna la si può trovare. E allora, cosa vorreste? Vorrei un ordine che ratificasse in anticipo tutto quello che riterrò opportuno fare per il maggior bene della Francia, disse Milady. Ma prima di tutto bisognerebbe trovare la donna di cui ho parlato e che dovesse vendicarsi del duca. C'è già, disse Milady. Poi bisognerebbe trovare quel miserabile fanatico che servirà di strumento alla giustizia di Dio. Si troverà. Disse Milady. Ebbene, disse il duca, allora sarà il momento di farsi dare l'ordine che richiedevate un momento fa. Vostra Eminenza ha ragione, disse Milady. E ho avuto torto io a vedere nella missione di cui ella mi onora una cosa diversa da quella che è in realtà, e cioè annunciare a Sua Grazia da parte di Sua Eminenza che voi conoscete i vari travestimenti grazie ai quali è riuscito ad avvicinarsi alla regina durante la festa della signora connestabile, che avete le prove del colloquio accordato al Louvre dalla regina a un certo astrologo italiano che altri non è se non il duca di Buckingham, che volete far scrivere un romanzetto dei più piccanti sull'avventura di Amiens, con la pianta del giardino dove si è svolta l'avventura e con i ritratti dei protagonisti. Infine, che possedete una certa lettera di Madame de Chevreuse trovata nell'alloggiamento di Sua Grazia che compromette gravemente non solo chi l'ha scritta, ma anche quella in nome della quale è stata scritta. Poi, se nonostante tutto ciò egli si ostina, siccome la mia missione si limita a quanto ho detto, non mi rimarrà che pregare Dio di operare un miracolo per salvare la Francia. È così, ne è vero, monsignore, e non ho altro da fare. È così, rispose secco il cardinale. E adesso, proseguì Milady, adesso che ho ricevuto le istruzioni di vostra eminenza per quanto riguarda i suoi nemici, monsignore mi consentirà di dirgli due parole dei miei. Voi avete dei nemici? Chiese Richelieu. Sì, monsignore, dei nemici contro i quali mi dovete tutto il vostro appoggio, perché me li sono creati a servizio di vostra eminenza. I quali? Replicò il duca. Prima di tutto una piccola intrigante di nome Bonacieux. È nella prigione di Nantes, disse il duca. Ossia c'era, ribatté Milady. Ma la regina è riuscita a ottenere un ordine dal re in virtù del quale l'ha fatta trasportare in un convento. In un convento? Disse il duca. Sì, in un convento. E in quale? Lo ignoro. Il segreto è stato ben custodito. Riuscirò io a saperlo. E vostra eminenza mi dirà in quale convento è quella donna? Non ci vedo alcun inconveniente, disse il cardinale. Bene, poi ho un altro nemico, disse Milady, per me ben più temibile di quella piccola Madame Bonacieux. E quale? Il suo amante. Come si chiama? Ah, vostra eminenza lo conosce bene, esclamò Milady in un impeto di collera. È il nostro cattivo genio, di tutti e due. E quello che in uno scontro con le guardie di vostra eminenza ha deciso la vittoria in favore dei moschettieri del re. Quello che ha dato tre sciabolate a De Vard, il vostro emissario, e che ha mandato a monte l'affare dei puntali di diamanti. Quello, infine, che sapendo che ero stata io a rapirgli Madame Bonacieux, ha giurato la mia morte. Ah, ah, disse il cardinale, so. Di chi intendete parlare? Intendo parlare di quel miserabile D'Artagnan. È un ragazzo ardito, disse il cardinale. Appunto perché è ardito, disse Milady, tanto più è da temere. Bisognerebbe, disse il duca, avere una prova delle sue intese con Buckingham. Una prova? Esclamò Milady. Ne avrò 10. Bene. Allora è semplicissimo. Datemi questa prova e lo mando alla Bastiglia. D'accordo, monsignore, ma poi, quando uno è alla Bastiglia, non c'è poi, disse il cardinale con voce soffocata. Ah, per Dio, continuò, se mi fosse così facile sbarazzarmi del mio nemico, come mi è facile sbarazzarmi dei vostri. Monsignore, riprese Milady, una cosa per l'altra. Vita per vita, uomo per uomo, datemi questo, io vi do l'altro. Non so quel che vogliate dire, ribatté il cardinale, e non voglio neppure saperlo, ma desidero farvi un favore e non vedo inconveniente di sorta concedervi ciò che chiedete nei confronti di una così infima persona, tanto più, come voi dite, che quel piccolo D'Artagnan è un libertino, un attaccabrighe, un traditore, un infame, monsignore, un infame. Datemi carta, penna e inchiostro, disse il cardinale. Ecco qua, monsignore. Seguì un attimo di silenzio che provava come il cardinale stesse cercando le parole adatte per il biglietto o addirittura lo stesse scrivendo. Athos, che non aveva perduto una sillaba della conversazione, prese ciascuno dei due compagni per mano e li trascinò all'altro capo della stanza. «Ebbene», disse Porthos, «che vuoi? E perché non ci lasci sentire la fine della conversazione?» «Shh!» disse Athos a bassa voce. Ne abbiamo sentito tutto quanto era necessario sentire. D'altronde non vi impedisco di ascoltare il resto, ma devo uscire. Devi uscire, disse Porthos. Ma se il cardinale chiede di te, cosa rispondiamo? Non aspetterete che chieda di me. Gli direte per primi che sono uscito in ricognizione, perché certe parole dell'oste mi avevano fatto sospettare che la strada non fosse sicura. Ne accennerò anch'io allo scudiere del cardinale. Il resto riguarda me, non preoccupatevene. Siate prudente, Athos, disse Aramis. State tranquillo, rispose Athos. Lo sapete, il sangue freddo non mi manca. Porthos e Aramis tornarono a riprendere i propri posti vicino al tubo della stufa. Come Athos aveva previsto, il cardinale non tardò a scendere. Aprì la porta della stanza dove erano entrati i moschettieri e trovò Porthos impegnato in una accanita partita ai dadi con Aramis. Con rapida occhiata frugò tutti gli angoli della sala e vide che mancava uno dei suoi uomini. «Che ne è di Monsieur Athos?» chiese. «Monsignore», rispose Porthos, «è uscito in perlustrazione perché qualche parola dell'oste gli ha fatto sospettare che la strada non sia sicura». «E voi cosa avete fatto, Monsieur Porthos?» «Ho vinto 5 pistole a Aramis, ai dadi. E adesso potete tornare con me. Siamo agli ordini di vostra eminenza. Allora a cavallo, signori, poiché si fa tardi». Lo scudiere era alla porta, tenendo per la briglia il cavallo del cardinale. Un po' più lontano, un gruppo di 2 uomini e di 3 cavalli si profilava nell'oscurità. Erano i 2 incaricati di accompagnare Milady al forte di La Pointe e di sorvegliarne l'imbarco. Lo scudiere confermò al cardinale quello che già gli avevano detto i moschettieri a proposito di Athos. Il cardinale approvò con un gesto e riprese la strada, circondandosi al ritorno delle stesse precauzioni prese all'andata. Lasciamolo seguire la via verso il campo, protetto dallo scudiere e dai 2 moschettieri, e torniamo ad Athos. Per 100 passi egli aveva mantenuto la stessa andatura, ma una volta fuori vista aveva buttato il cavallo a destra e con un giro era tornato a 20 passi in un folto di alberi a spiare il passaggio del piccolo drappello. Riconosciuti i cappelli gallonati dei compagni e la frangia dorata del mantello del cardinale, attesi che i cavalieri avessero svoltato l'angolo della strada e, perdutili d'occhio, tornò di galoppo alla locanda che gli venne aperta senza difficoltà. L'oste lo riconobbe. «Il mio ufficiale», disse Athos, «ha dimenticato di fare alla dama del primo piano una raccomandazione importante. Mi manda a riparare la dimenticanza». «Salite», disse l'oste, «è ancora nella sua camera la signora». Athos approfittò del permesso. Salì la scala a passi leggerissimi, giunse sul pianerottolo e dalla porta socchiusa vide Milady che si metteva il cappello. Entrò nella stanza e si chiuse la porta alle spalle. Al rumore che gli fece mentre fermava il chiavistello, Milady si volse. Athos era in piedi, davanti alla porta, avvolto nel mantello, il cappello calato sugli occhi. Nel vedere quella figura muta e immobile come una statua, Milady ebbe paura. «Chi siete? E cosa volete?» gridò. «Sì, è proprio lei», mormorò Athos. E lasciando cadere il mantello e rialzando il feltro, avanzò verso Milady. «Mi riconoscete, signora?» Milady fece un passo avanti, poi indietreggiò come alla vista di un serpente. «Su via», disse Athos. «Bene, vedo che mi riconoscete. Il conte di La Fère», mormorò Milady impallidendo e indietreggiando fino a toccare il muro. «Sì, Milady», rispose Athos. «Il conte di La Fère in persona, che ritorna apposta dall'altro mondo per avere il piacere di vedervi. Sediamoci dunque e discorriamo, come dice Sua Eminenza il Cardinale».